una repubblica fondata sul lavoro, ma chi lavora appena per il pane e le Marlboro. Questa realtà che si rivela ancora tirannia, così bussa alle porte della mia fantasia. In fondo questa vita, piedi a terra, occhi in cielo, botte a sclero, spari a clero, no di nero, ho un bicchiere Jack intero e mo sincero, satanismo, omofobia da qui. E mentre tu rinvii la vita passa con gli addici. E l'hai vista le forze fra della natura e la scienza per l'uomo, che un giorno sarà contro l'uomo, che l'unica cosa sicura è come una canna che cura. La vera legge deriva dai versi della magia, e tu non detti più regole nella mia poesia. Da Gandhi fino a qui, a Martin Luther King, dai grandi in Italy ai martiri sul ring. Di questa vita ci porteranno a rogo sicuro, ma brucerò reppando come Giordano Bruno. Ognuno può dire qui ciò che vuole, ciò che vuole ancora. Spooky nel sogno, stanotte un'ombra, sai che mi ricorda giorni che non dovevo parlare con nessuno. Mi metteranno a rogo come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno. Strappami ora le mani oppure leggi la Bibbia. Non governi la mente neanche se domani mi tagli la lingua. Fuori dalle frasi retoriche, queste barriere architettoniche, non dovevo fiatare al momento fatale con gli occhi fuori dalle orbite con un'aria nobile. La santa inquisizione cancellerà il mio nome, lo giuro sull'onore, mi fa da testimone. Se la censura non permette che la carichi, io me la prendo e la pretendo, nuovo guapari. È bella come na, si te sento spandaca, pa nasco una verità, si ma funno potestà. Chi sto conto le papà, pierda patria potestà, non sia mai per carità, sulla sorte infamità. E ne diranno tante quante sulla mia persona, quell'uomo incappucciato più di un rapper di bastona. La pagherà in vano, o forse mica tanto, sarà Giordano il Nolano contro tutto il branco. Ognuno può dire qui ciò che vuole ancora. Spooky nel sogno, stanotte un'ombra, sai che mi ricorda giorni che non dovevo parlare con nessuno. Mi metteranno a rogo come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno. Premi l'acceleratore fuori al bar, ma nessuno qui dirà che non si fa. Copo micco, fuoco pare scatenato, Clementino, floco mano carro armato. Noi di qua ci siamo persi nel tempo e favole taglianti come pezzi di vetro. Attendi il momento perfetto, cammini ma resti più indietro. Io lo so come triste, ma non esiste fa, e non esiste ma quello di ingannarci ci hanno sistemato. Ora cantiamo ancora come Sister Act. Quando cala la notte, le fiamme vanno su, che tra le varie lotte tutti gli eroi di giù. E dove sta scritto che qui non si può parlare? Dici riga dritto e non posso manco ballare. Oh yes, battiti cardiaci nello stomaco, però mentre faccio una bomba da sotto prendo fuoco. Tra chi vuol fare il nuovo volto Michael Jackson buona, tra chi sgarra rap viene da Pio Bertona. Io ritorno nell'oscuro in quello strano fumo, ne faccio un'altra e me la fumo con Giordano Bruno. Ognuno può dire qui ciò che vuole ancora. Spooky nel sogno, stanotte un'ombra, sai che mi ricorda giorni che non dovevo parlare con nessuno. Mi metteranno a rogo come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno, come Giordano Bruno.